tornata in soggiorno e ce la aveva lì lui. E ci metteva sia legna che cose di olive, ci metteva i sacchetti delle olive, anche quelli. Ho capito le... come si chiama? Ma non mi viene, ma a Sans. I trucciolini. Trucciolini, mentre li vuoi chiamare, e quelli. Scaldava parecchio, ma da voi ha fatto fuori mio padre. Ma l'unica stufa che era bella era quella a legna. Solo che c'aveva quei due problemi. La vermicola, la luce di si entrava in casa e come la mettevi, perché noi ce la portavano un furgone pieno, poi ce la scaricavano a marciapiede e con i bacinelli fino a luce bubiano, una fatica. Prima era così, prendevamo le bacinelle e c'erano mie sorelle, io, mio padre, mia madre, e la portavamo su senza ascensore. Masche! Tre piani senza ascensore, Almeno ti rimani più in forma. Alla fine della giornata eri grimbato. Cioè, se tu cavavi tu una cassa di defaticante da buba fasciata. Ah, guarda, Tito. No, io ti devo lasciare, che è venuta una persona. Ti devo lasciare. E ci risentiamo domani o lunedì. Se ci sono, sempre. Ciao Sante, a risentirci alle prossime, stammi bene, ciao già, ci risentiamo. Certo, anche io sono andato che devo portare il cane fra poco, 5 minuti ancora e poi chiudo. Ciao Tore, buona serata. Ciao Tore, buon proseguimento, buon tutto, già ci sentiamo, ciao ciao. Ok, ciao. Vai, va bene Nenghi. Ma che? Stasera prendeva. Anche stamattina, guarda, io sono uscito alle 4 e stava piovendo, poi Tore mi ha toccato a prendere la moglie e stava piovendo, insomma è tutto il giorno che sta piovendo, perché poi sono andato a farmi la spesa, sono tornato a casa e non sono più uscito, allora devo uscire un lugare fra un po', speriamo che non fosse a Eva. Antonio era mobilendi sempre, ma non lo so, che prendi che tu prima, già un po' giugno. Ma voglio vedere se a luce piena lo vaccino di quei dichinzi, che se ne avevo poco restrizioni, un giorno sì, un giorno no, poco per ne, poco no per ne, ma io non ne faccio a comprendere più. Era mezzo di proprio biscio, alla sera ci sono lamentati che non va via neva, che dovevo chiudere l'acqua perché non ce n'è acqua, non arriva l'acqua. E l'altro giorno era tutta allagata la riera, invece di rampare la luce leva, anche non le raccogliono, non mettono le raccoglitori per raccogliere l'acqua. Perché secondo me sono tutti quanti tipo qualche mafia strana in giro, perché tipo l'anno scorso gli amico di Varese mi ha detto che lì c'erano dei bacini di raccolta d'acqua, lì si erano invitati e hanno fasciato tutti quanti i lussi di chi sul cane che vedano in giro, avevano il suo budoffer. Ed erano arrabbiati, avevano ragione. Pensavamo in visto là. Secondo me hanno fatto così in estate, li hanno svuotati e così per far poi creare un po' di disagio, aumentare i bulletti e tutte cose strane. E ogni tanto li svuotano per pulirli. E a Bidichisi c'è il pesce, quelli che lavorano lì si portano le vaccinate, si portano anguille, carpe, di tutto. E si rimuovono in campagna, li vanno gli irrigatori, diciamo, di vascone per irrigare, si rimuovono in chividrezzo, come ha fatto un amico mio, ce l'hanno regalati. Ha detto, vieni a prenderteli e dobbiamo svuotare il bacino, a casa l'hanno regalato un po' di pesci, dico, ce l'ha avuto il fuoco di un vascone, certe carpe che sono diventate grosse, li buttava il pane duro da mangiare, cazzo pubblico sono diventati mani, e lui non riusciva mai a pescare, sono attivo un giorno, c'era una carrucola vecchia, mi ha attaccato alla carrucola una lenza, uscì una lenza russa, uscì, cazzo si è mirato una carpa enorme, e la madre, vedi chi sa pescare come le prende. Infatti, però Allora io l'ho presa una bella, lo stagno di Flattamona, andando assieme con amici, con il mais, il gorgo, fa di vestirsi a cattià. Poi e tu devi vedere, allora c'era povera nonna, e l'ha fatta tutta danza, cipolle, pomodoro, questo comune. Beh, a vedere da che raccolta si è fritta, ma con la iatra buona mangiata. Avevo un sapore di tipo di terra, poi di cosa strano, chi da lì non si è abituato a mangiare pesci di riso, di radotti, no, non lo so, meglio sarà che... E lo sai cosa c'è? Che il pesce di fiume vuole pescare in posti dove non siano melmosi, bisogna conoscere i posti, dove c'è l'acqua un po' corrente. Non dove si stagna l'acqua, perché dove si stagna l'acqua sono tutti fangosi, poi se loro mangiano questa roba da sotto, mangiano proprio dalla sabbia, dal fondo là, e quindi si prendono questo sapore di... A me, guarda, un amico mio l'ha preso, non ve l'ha andato, non mi ricordo, non abitizzo, è andato in un bacino, non lo so, però, e mi ha detto che lì erano buone, se ne volevo, che ne aveva preso 5, tutte enormi, e te ne hanno in bozza, non ne vanno un pesce di fiume. E Pina, te lo guardo, te lo dico io come farlo, ma te lo muore una notte sotto sali, lo fai a tracci, lo metti sotto sale, e poi l'indomani lo vai, lo metti in un baccalà, e vedrai che non capisci se è baccalà o se... E veramente era così, era buonissima. Vedi, ti ha dato una dritta come cucinarla, però la verità se tu magari è buono come se ti punti giusto per la fosa, no? Alla fosa bisogna le finche, le scarpe, i muscoli, queste cose così, e chi si già sono buoni a chi per un gozzo di leva corrente in giri ed è buono. E poi i muscoli di roccia, quelli li prendevamo appunto a tramontana, un filaccione con 7 ame, mezzo panino arrotolato, un fischio appena appena leva, lanciato, di Maria, ne vedi già il vino a muscoli, lo attaccavano in là di loro. Vabbè, ma chi mi ha trovato di più entrare? Io andavo a fare il cucino di Pasquale dell'Ede. Ciao, avanti, chi è? Io non sento nessuno. Avanti l'amico che mi ha chiamato Sanpei, chi sei? Boh, pure una sadia entrato, mi ha detto ciao Sanpei, boh. E devo essere con la gara, entrato, pure c'è un bel massimo. Ma è una voce che, boh, tipo conosco, ma non riesco a parlare chi sia. Cazzo, Bodivella, avanti Bodivella, cosa vai, motore 130? Bodivella. Uno Luca Pedivella mi pare si chiamava, non so se è Pulco d'Urriso, a chi si Pedivelli, in Pulco d'Urriso venivano bene per spetti. Comunque la vostra specie non ha mai tramontato, sempre, per me è stata sempre la migliore, a me piaceva la specie di primavera. Io ce ne ho due, una ruia e una verde, so chi so. Le ho ripristinate, le ho tutte fatte, qualche milione tra guaini, virgo, pattoni, vernice, perché me le ho fatte io, no? Poi ho comprato tutti i pizzi, guarnizioni motore, pizzi 130 corsa alta, albero motore alto, e cosa sono 19, ma mi sta pulito senza esagerare, pedito, e volano finato. A me la mamma piaceva quella super sprint, quella spiccia. Non è tipo la Polini, però senza silenziatore. E poi la Volta SS, non so se ti la metti, forse tu non l'hai conosciuto, quello col manubrietto. Sì, che l'ho conosciuto, aveva il manubrio più corto e lo scudo leggermente più svasato, da. No, quante sei, se proprio camminava chissà volta. Io avevo un amico che ci aveva messo i pezzi, il 175 era la Vespa, e i rapporti della Lambretta, lui, che proprio camminava, sei di Leggerma. E cosa che la via Agustini, poi va un braccio di ferro, non so cosa hai conosciuto. Ho sentito nominare, ma non lo conoscevo di persona. E di sotto modulava, cosa ne so, 20 anni fa, 30 anni fa. No, questa qua a Sacro Cuore, dove abitavo io, era quella più veloce. Guarda che era un matto, dice, ci avevano pure i piedi, lui non faceva proprio di cazzate, ci muore i piedi di un'altra volta. Prima erano più passerelli, diciamo, là. Ava non ve ne più, ava tutti la parte di un computer, con un telefonino, tutti i passati di servizio. Io la facevano le gare, andavo, questo era il chilometro, dove ci sono le luci gialle per andare in Pantamona, per Sassosa, eccetera. Lì facevano le gare, libretto e libretto. Veniva tipo in parada, dimmi, dove c'è il fornitore a destra. Sì, c'è la rettilinea, no? Non quel ponte che c'è uscendo da Sassari per andare verso Sorse. Lì al chilometro. Ti dava le librette in mano, tu tenevi tutti i libretti, chi vinceva si pigliava la moto. Sì, già lo so, il chilometro, no? A più bella subito da puoi fare nei bannali a Sidotti, compresi, e visto rimane in parada. Dove adesso hanno fatto la rotonda, prima aveva distrutto, va. No, partivano dal ponte e si arrivare a dove hanno fatto la rotonda adesso. E c'era il giudice di gara, si metteva lì, chi vinceva gli dava il libretto un'altra moto e Guido si ritornava a piedi. Ma che non mi chiedi, di già giustizia. Una volta invece li attendevo a Sassari. Però ero più ragazzino, era meglio con l'ospedale a fare terapia. Già se non manco la paretta, la finisce la finita. Poi ho cominciato a chiedere anni, mi sono fatto una nuova. Praticamente da Invidi da cui ci sono passato a Monte Piantino, da Ricurso Pettinale, un giorno, già se non si è preparato da cui dalla scappata. Tu vai in giudicato e ci sono scusati, Guido, che non me ne studiava nella moto. E la tale bicicletta? No, perché ci sono passati in bicicletta di crisi, mi passa di fuori della finanza, vanno, la bicicletta che ha fatto sotto, dalla parte della finanza, non so di noi. Comunque loro hanno le tutti in moto, sì. E via, si via a casa. È gratuita, dici, di grazie. Io da qui, lo stesso senza polini, con salsa, bruciava perché viene da lontano che rimane in piedi. Campana 125, primavera, il cambio era normale, però era la guappa della pezzi qua. E allora, io mi ricordo che a Sacro Cuore, dove abitavo io, a casa di mamma, lì c'è il parcheggio di fronte alla chiesa, mettevano un cappone in terra, bigiavano nella moto e la truccavano in chimica, si prende un carrino. E io sai, Julio, dai un lato di mortizzatori, il ritorno centrale, se ti fidi manco bisogno di cavare i maschi di freno, guida, soltanto li buttavi appena, dai un cavallo di un pistone, che per esempio magari era quello che si fa. Che fai, se pulito più forte, ora via, io prima mi dico. Già andava in un gol e trovo il Kiwi, la campana, tutto di guardiare, il Kiwi, io lì. Io oggi mi sono lasciato, ora si è comprato una Vespa 50, nuova. Cazzo, si sono avvicinati questi qui, amici miei, amici suoi. Me l'hanno cavato un cofanetto, era abusato in moto, era proprio in denti, non se ne è manca abbizzato, uno l'ha passato dall'altro e l'ha rimborato un cofaretto, si gira, ma non per il cofaretto, io te ne tengo il cofaretto, non abbiamo il cofaretto, tu è besso, io ho visto che ce l'aveva preso da piccolo. Ma da un po' perché è stato, comunque era rispetto, quindi era un bel effetto, era rispetto, quindi mi famo nel muretto, bambini, adesso i ragazzi di adesso ho sorripato da fare di là, forse non ci stato in casa dopo lo telefono, non stava via, non sono niente di più. Ho giocato a un computer con i giochi, io noi avevamo la grefa, proprio tutti ci avevano la moto, andavamo a plattavare tutti gatti in grefa, lui e ci siamo divertiti poco, ma non ce la potevamo, anche al ghero andavamo in moto tutti quanti in grefa. Io ne ho avuto, ho avuto anche il zio che aveva i pizzi, camminava un bel, pure un marito. Già, vedi di là che ti rubo un invaro, ti posso di gare, ora vedi di. Ma l'ho venduto, una settimana dopo l'ho rubato a quello che l'ho venduto, cazzo, ho fatto il tempo in testa. E veniva ne poco magari strane prima. Eppure noi eravamo così. Ci organizzavamo, tipo, noi siamo andati pure a Usini in Vespa. Usini, Istiri, Uri, facciamo di a tappere, un sabato si organizzavano in fattia, con la giacca a vento, andiamo freddo, la Lecce a faccia, la punta non altro si ghiacciava. E ma le carcarate? Sì, no, perché dici, no, una lettura viene da Sassa, gli dico cosa c'è, Valle Verde, come si chiama, il surubu, e poi ti porta dietro alle punte. Grazie a tutti, un colpo d'eva, vini vini, siamo durati a tutti, tutti i canti, triccioloni, cazzo, tutti i canti, finta che li mondani, va via, mi fui. Monte Tignoni, stai dicendo? Ehi, ti un casino, ti un casino, la notte c'è quella da Milano e Vignolo, l'ho vista, mi sono incasinato, perché c'è con le viuzze, non esci un bicoia, di notte non è comunque, perché... Prima mi regolavo perché c'era una madonnina ed un'entrata del vicolo dove volevo entrare e giravo lì. Però di notte non l'ha giuita, ha giocato un casino, l'ha giugiato, ha detto fatti trovare fuori perché io qua non riesco più a cavare le fili. A chi un di voi c'è un casino quando sono tipo zone così. Cioè di giorno è un'altra cosa, di notte come se li tutti si peggi di polusignario, lo punto di riferimento. Grazie, stai ieri in tondo e non agatti la via di fuga, dimmi. E la volta l'avevo vista brutta, mi ero invitato a una festa di laurea, ero in abito, tutti rado e cose, però sono andato in moto. Mi hanno detto che c'era un carrozziere, per conoscerlo c'era fuori, c'era fuori un cofano di macchina dove è scritto carrozzeria e io dovevo girare a destra lì. Mi sono trovato in questo bivio, non mi ricordavo, c'era a destra o a sinistra che mi avevano detto. Beh, io ero giubilato a sinistra, ma era qui avanti. E non vi chiuso, c'era una villa, c'è di Ringani, cominciano a bisseguirmi. Io là che sopra un malugo e tutta manetta, cazzo, mi saltavano, mi hanno strappato tutto il pantalone, l'abito, tutto là. Ma ne vado a beffa. E io a tuo grido, via. Mi sembra che ho sentito il cane che ti dà già mente, come sta di aiuto. È vero, sì, mi stai chiamando, adesso vado. Aspetta, sono già pronto, metto le scarpe e scendo di un botto. Perché sono già uscito, quindi mi ero già preparato tutto. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo, sono qui, stavi bene, buona serata e buona cena quando la fai. Ciao, ciao. Grazie, ok, Kappa Roger. Anna, dai, buon proseguimento, tante cose belle, dai, e anche a te buona cena quando ti... Ciao, ciao, già ci sentiamo. Tante cose belle. Ok. Break, break. Break. Me, per il ve, a ci sei, per il ve. Ecco, Bedivella, attenzione Bedivella, Gianfranco la scimmia, Gianfranco la scimmia, sì sì, guarda che novenelle avanti oggi mi. Agli amici in ascolto, buon pomeriggio, ci sentiamo, ciao ciao dal canale 10 in AM da Stampi, Golfo della Ginara, alle prossime, ciao ciao a tutti. Brecco, brecco, brecco, brecco, ora, 1, 2, 3, 4.